Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti. Ennesima puntata di Rockway. Io ero anche ieri sera, non facevo Rockway, facevo Blu Radio a sera, però ci sono anche stasera, Michele. Ci sono dappertutto, sempre dappertutto. Michele Tason, chiaramente il mitico Michele in regia, e stasera da Roma, dalla capitale, si può dire, Roma. New Disorder. Buonasera e grazie per essere arrivati da Roma. Ciao. Buonasera. Grazie. Avete fatto buonasera. Un buon viaggio, metà in treno, metà in macchina avete detto. Sì, sì, sì, ci siamo divisi perché... abbiamo sfruttato tutti i mezzi possibili. Esatto, era una bella giornata di caldo, sì, fine aprile, e tra il treno e macchina siete arrivati qui a Padova per fare questo concerto live qui a Rock Wave. È esatto. Bello fare il live, è emozionante secondo me. Sì, vedrete, sì. Poi siete soddisfatti. Considera, beh, innanzitutto un saluto a te Maurizio, a tutto lo staff di Blu Radio Veneto. Ringraziamo Agostino che ha catapultato gli interessi. Ringraziamo Agostino che ci ha invitati. Certo. E un saluto chiaramente a tutti gli ascoltatori. E noi siamo in New Disorder, come è già stato annunciato. Sì, il live è bello. Tra l'altro ci troviamo nel pieno di un mini tour, il nostro primo mini tour, quindi questa data capita esattamente nel mezzo, perché abbiamo perfetto. Già fatto tre date, ce ne sono altre tre prossimamente, per cui sì, siamo in piena atmosfera live. Benissimo. Allora, passiamo a ricostruire la storia di New Disorder. Io ho letto che nelle note nasce nel 2009, quindi da poco, nel maggio del 2009, però esattamente. Dietro cosa c'è nel New Disorder? Beh, ci sono altre entità musicali. Palafrani, il cantante, il vocalist, inizio, frontman, poi, come si chiamavano i gruppi progressive. Sì, adesso si dice semplicemente il vocalist e il cantante. Sì, beh, innanzitutto mi presento Fran, ma... E poi presentiamo anche gli altri membri della certo, band. Certo, all'anagrafe Francesco, ovviamente. Perfetto. Come si capisce anche dal nomignolo. Beh, alla base cosa c'è? C'è l'esperienza di ciascuno di noi in precedenti situazioni musicali più o meno impegnative, più o meno durature. Siamo tutti appartenenti alla scena rock e metal della capitale, fondamentalmente. E come sai, nella scena musicale di una città, di una provincia, ci si conosce, ci si apprezza reciprocamente e poi si decide anche eventualmente di partire con dei progetti paralleli, certo. Che poi diventano anche insomma interessanti, come in questo nostro caso. Noi non è neanche un anno che suoniamo insieme. Tra l'altro, il primo embrione del gruppo era formato da soli tre elementi. Noi attualmente abbiamo raggiunto la nostra lineup definitiva con cinque elementi, ma in pratica da sette mesi più o meno, non di più. Quindi diciamo abbiamo bruciato le tappe in un certo senso e siamo soddisfatti del risultato finora acquisito, che è quello di aver comunque già un LP all'attivo. Sì, 9 pezzi che avete. 9 pezzi, quel diciamo. Disco nuovo, quel disco quasi, che ho, quasi un long play. Esattamente, sì. Quasi un long play come si usava una volta. Sì. Una volta si usavano i 9 pezzi. Sì, sì, si arrivava ai 40 minuti, voi siete arrivati sui circa 40 minuti come si usava sì, una un volta. Un qualcosina di un meno. Qualcosina di meno, però è l'inizio, chiaramente. L'inizio sì, è una cosa difficile. Salutiamo anche gli altri elementi da band stasera con 3 chitarre, un basso e 2 chitarre acustiche. Non c'è la batteria, poi lo saluteremo nel corso del programma. Se vuoi presentarti? Allora, buonasera a tutti, io sono Gio Santita, in arte, e suono nei New Disorder la chitarra... Dall'inizio, è uno dei famosi tre membri fondatori. Esatto, siamo io, Fran e Steve, gli elementi fondatori, ma non per questo, diciamo, siamo i leader. Ho capito. Non per questo siamo i migliori, ma facciamo parte dello stesso gruppo. Chitarra elettrica o chitarra acustica? Chitarra elettrica. Chiaramente chitarra elettrica. Fran è il cantante, il vocalist, vai, Steve, il bassista. Al basso. È più giovane, mi pare, sei sì, più giovane. Sì, sì, si vede che sei sì, più giovane. Ti vedono che sei più giovane. Potremmo dipendere di questo, No, sì, vabbè. Ok. Diciamo Stefano... al basso per gli amici, per il nostro altri, fratellino amici e appunto come diceva Giordano faccio parte del nucleo della prima line up dell'embrione della insomma, band praticamente disorder. Ma non per questo insomma mi sento a capo di qualcosa, no, assolutamente gruppo, quello è importante, parte di un gruppo insomma. Okay, io sono Fabrizio, beats nei New Disorder e io sono il vero leader del gruppo. Ah, perfetto. No, è vero. Suoni l'elettrica anche te? Sì, chitarra elettrica. Arrivato al progetto in corso, ha preso il progetto per le redini e adesso noi siamo assolutamente alle sue dipendenze. Esatto, esatto. Si pago anche, devo anche pagare. Questa è molto interessante. Quella è la parte più interessante. Tra parentesi, questo mese ancora non abbiamo percepito una lira, un euro. Vediamo comporti stasera. Beh, beh. Okay. E poi manca il batterista che ci sentirà. Max, poi, lo salutiamo chiaramente. Lo saluteremo anche per telefono. Affettuosamente, tanto è lì che ci ascolta mentre sta mangiando. In questo momento, sicuramente lui sta cenando. Bene. Pensando a noi. Ciao, Max. E suona la batteria. Sulla batteria, cenando e pensando a noi. Benissimo. Esatto. Ok, come da d'uso della trasmissione, dobbiamo aprire la finestra, cioè far sentire musicalmente dove viene fuori il suono dei New Disorder. Allora abbiamo scelto di sentire la prima traccia, chiaramente, che io ho scritto nelle note di presentazione. È un colpo allo stomaco, una traccia violenta nel senso positivo, cioè sveglia, risveglia da uno scossone, se mi è consentito il termine, questa chitarra lisergica che apre la danza. Prima di cominciare però dobbiamo salutare lo staff, Michele Tosò, il mitico Michele in regia, la nostra redazione al femminile, la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, che ci stanno preparando delle torte, Michele, che arriveranno fra qualche Fantastico. Settimana con delle torte. Non ti interessano le torte, ma torte interessanti. Poi Agostino, che è il nostro fotografo ufficiale, e Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, e Roberto Baldi, che ha curato la missione delle telecamere, il tecnico delle telecamere. Siamo pronti per sentire New Disorder, musicalmente parlando. Apriamo la facciata, apriamo la finestra per il primo pezzo, la prima traccia del disco. La vogliamo presentare subito, la prima traccia la presentiamo dopo musicalmente. Magari ne parliamo dopo, perché ha un filo conduttore con la seconda. Perfetto, ne parliamo dopo. Ok, allora. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Don't face me. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo aperto la finestra, abbiamo sentito il primo pezzo dei New Disorder. Come è nato, come si è sviluppato l'idea, dove è partita? Il riff iniziale che dà un colpo allo stomaco, apre, sconquassa nel senso positivo del termine. Di questa canzone? Di questa canzone. Beh, questa canzone è nata in maniera un po' particolare, perché è un'idea che ha avuto il nostro bassista alla chitarra. Ah, non il basso, suonando il giro, la chitarra, l'hai fatto la chitarra. E sì. Da lì si è sviluppata praticamente con il contributo di tutti. E il risultato è stato molto soddisfacente, perché è estremamente omogeneo secondo noi, nonostante l'eterogeneità degli input. Cioè sono arrivati input da parte di tutti. Cioè cosa intendi praticamente così? Nel senso che ognuno di noi la vedeva in maniera diversa, ha dato il suo contributo, alla fine è venuto un qualcosa che assomiglia veramente a un riassunto di tutte quelle che erano le idee che ciascuno aveva espresso. Stranamente però appare come se fosse frutto di un'unica mente. Benissimo. Questo a noi fa molto piacere, sì. Cioè, è stato anche riconosciuto. Una coesione totale, una fra totale tutti, coesione. Con tanti input che arrivano differenti, anche che idee creano la mente dei New Disorder, insomma. Apparentemente opposte in alcuni casi, c'è chi la vedeva più metal, c'è chi la vedeva più melodica, c'è chi addirittura la vedeva ballad. E poi è venuto fuori questo pezzo, che secondo noi è un po' la sintesi del nostro stile. Tra parentesi, possiamo aggiungere, questo pezzo è stato scelto per una compilation che uscirà a maggio. A breve, a sì. Brevissimo. E come rappresentativa della band, quindi evidentemente questa percezione non l'abbiamo solo noi, ma l'ha anche qualcun altro. Vabbè, cioè, prima di cominciare la trasmissione, con un piccolo intervento di apertura, si parlava dei vostri contatti americani. Cioè, sì. come mai il progressive, tra virgolette, o l'alternative rock piace molto negli States, secondo ma voi? La cosa ancora più strana, se vogliamo, è che il nostro pubblico negli States ha un'età media che si aggira intorno ai 20 anni. Ho capito. Quindi piuttosto bassa. Questi sono, diciamo, pezzi che come struttura, come arrangiamento, come sonorità, diciamo, prendono le loro origini, le loro ispirazioni anche da lontano. Però proprio il fatto di calarle nei nostri tempi, no? Questo è quello che cerchiamo di fare fondamentalmente, di riassumere quello che di buono è stato detto finora, anche molti anni fa, e di tradurlo nel linguaggio musicale odierno, quello che noi riteniamo essere una chiave di lettura moderna. E probabilmente questo tipo di messaggio è passato ed è arrivata ai giovani americani, i quali hanno riconosciuto una certa novità in tutto ciò. Magari non memory di quello che sono, diciamo, le sonorità passate di magari 20 anni fa, 30 anni fa, però evidentemente questo è stato un qualcosa che è stato apprezzato. Lo vedono come novità loro. Esatto. E soprattutto una cosa che apprezzano molto, sono i testi. Ho capito. Probabilmente dovuto al fatto che noi scriviamo come italiani, scriviamo in inglese. In inglese, come italiani. Ma come se con i concetti della canzone italiana, nonostante italiana, che sia che è molto diversa come modo di pensare proprio della mentalità americana. Sono d'accordo con te su questo. Anche perché penso che comunque sia gli americani come concezione, come mentalità, sono molto più aperti e predisposti all'ascolto rispetto a noi italiani, che siamo sfortunatamente forse limitati a una concezione di musica che ci viene proposta o che ci viene viene usufruita in modo diciamo acquisita dall'estero, quindi è una, diciamo, di seconda mano, bravo. Invece il mercato americano ci ha apprezzato molto per la nostra musica, perché l'innovazione e la loro apertura mentale è più disposta ai cambiamenti, è più disposta all'ascolto di nuove sonorità, e questo ci ha portato veramente a scoprire anche nei ragazzi di 16 anni, 20 anni, 18, una sensibilità verso la nostra band sconosciuta qua in Italia. Sì, non ci sono dei preconcetti praticamente, esatto, dei musicisti americani. Si ascolta. Ti faccio un esempio: l'altro giorno, una settimana fa, è venuto Willie Nye qui a suonare. Willie Nye, un musicista straordinario, un musicista che ha suonato con Dylan, con Bruce Springsteen, e ha suonato semplicemente, senza nessun particolarità. Si è seduto, ha detto: ci sono due chitarre, proviamo, e è andato via. Cioè, semplicemente così, come fosse una cosa normale. Non ci sono i preconcetti, esatto. Non ci sono i territori, non ci sono i giardinetti, non ci sono gli ordini particolari. In America si ragiona così, la musica è, va al di sopra di tutto. E questo è un concetto fondamentale, esatto. Secondo me. Ok, a proposito del concetto fondamentale, andiamo al secondo pezzo, okay. Ampliamo ancora l'orizzonte. Esatto. Come si intitola il secondo pezzo? Innanzitutto non abbiamo ancora detto il titolo dell'album, questa Hollywood che brucia, sì. Praticamente. A questo punto direi, parliamo di quelli che sono i filoni tematici che sono, sì, dietro questo album, che poi più o meno si rispecchiano in tutte le canzoni. E ci sono fondamentalmente due tematiche, tre diciamo. Sì, facciamo due tre. Principali e la terza che fa da cappello a entrambi. Sì. La prima è quella dei ricordi. Dei ricordi che vengono spesso sopiti, ma che al momento, diciamo, meno opportuno, nel momento in cui non te l'aspetti, riescono fuori e ti scombinano i programmi. Ho capito. Ti portano indietro con la mente, ti portano a comportarti in maniera diversa da quello che avevi programmato. La seconda tematica è quella dell'effimero. L'effimero è appunto rappresentato anche dal titolo dell'album Hollywood Burns. Sì, esatto. Hollywood rappresenta nell'immaginario collettivo, sì, qualcosa di effimero, nel senso qualcosa di un sogno, un'illusione che a un certo punto, per quanto la si possa rincorrere, svanisce. Sparisce. Si rivela per quello che è, appunto, un'illusione. Cioè... E nella canzone in particolare... che poi appunto dal titolo al disco è stata il title track, si diceva una volta, esatto, si dice ora, nella title track questo effimero viene rappresentato con delle immagini anche a volte ironiche, sì, un po', diciamo, pungenti, che ne so, magari il trucco troppo pesante sul volto di una donna, l'abbronzatura a tutti i costi in qualsiasi stagione senza aspettare l'estate. Tutto questo era riassunto in un testo che... Che hai scritto te il testo? Sì. Ok, perfetto. Ecco perché ne parlo così. No, se no non avrei potuto parlare in questo modo. Assolutamente. E chiaramente la canzone stessa rappresenta in sé proprio il tema dell'effimero. Tutte le altre canzoni riprendono questo tema in maniera più blanda, e il tema dei ricordi, e chiaramente poi il tema dell'amore, ma quello anche acerbo in certi casi. Non a buon fine. Duro, senza doloroso, senza essere però chiaramente patetico. Capito. O banale, sì, o, sì, sì. Cioè, o diciamo senza indurre alla depressione, non è quello che vogliamo assolutamente. Certo, ho capito. Benissimo, ora prendiamo nel secondo pezzo, sentiamo il secondo pezzo. Escape. Esattamente, Escape. Number one. Ce ne questa è la prima. È la prima. Escape, tra parentesi, questo è il pezzo più apprezzato dagli americani, quindi inviterei tutti quanti ad ascoltarlo con attenzione e vedere se anche in Italia fa lo stesso effetto. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo sentito Escape, la prima traccia di Escape, poi ce ne sarà un'ultima alla traccia numero 9, è vero? È così? Sì. Benissimo. Escape Part 2. Part 2, esattamente. Che è la scelta mia per un mese, è stata sentita in un programma mio notturno, si chiama Non Solo Acustico, ho scelto Escape numero 2. Per un mio... perché mi piaceva. Cose che si sentono e poi in piacciono. Questo i gusti personali sono importanti. I gusti personali sono importanti, secondo me. Ma parliamo di questo pezzo che piace molto agli americani, questo finale che tu usi il basso. Sì, la parte finale che poi è anche l'inizio del pezzo. Esattamente. Sì, diciamo, tutto è nato da un... diciamo una traccia che io avevo portato, che avevo in mente, avevo portato a, diciamo, agli altri membri, e ne abbiamo parlato, e diciamo da quel riff iniziale e più o meno dagli accordi amalgamati in modo diverso poi successivamente è nata poi la canzone, e secondo me poi il testo richiama molto bene quello che è la trama musicale poi del brano, insomma. E c'è un inizio comunque molto, molto semplice, però con suoni molto distorti, che va vai, cioè che via via una va praticamente aumentando sempre di più, insomma. Il bello del tutto è che questo ragazzetto qua, che giovane, molto giovane, diretta a rockwave.intervista.org, lo stanno vedendo in questo momento, ragazzetto. Questo pischelletto. Stanno vedendo. Come si dice a Roma. Questo ragazzo ci porta solitamente riff che farebbero diventare riff di grande successo. Però non riesce a sfruttarli. Allora, noi logicamente, facendo atti di nonnismo... Perfetto. Requisiamo. Lui è giovane e voi siete un po' più anziani. Li requisiamo. Allora, requisiamo il prodotto che lui... L'idea. Sua mente, l'idea che lui ha realizzato. E la spalmiamo e la manipoliamo in modo tale da tirare fuori pezzo, Escape, che secondo me ha un'apertura melodica e un ritornello veramente... come dire, sì, che ti prende, che ti prende, ti prende. Che stai lì e lo ascolti fino a che non finisce, fino a che non termina. A proposito di questo probabilmente è il pezzo che meglio rappresenta il cosiddetto, quello che gli americani chiamano mood. Sì, ho capito. Della band. Sì. Noi siamo molto attenti a questo fattore, ma è proprio una propensione naturale, fondamentalmente. E al di là del discorso dell'arrangiamento efficace, della musica suonata in un certo modo, del suono, c'è il discorso del mood, di quello che la canzone di per sé, nella sua interezza, senza andare a sviscerare il particolare, trasmette all'ascolto. Questa canzone probabilmente è uno dei pezzi più forti da questo punto di vista, di questo album. E dal vivo come la fate, questo mood alla italiana lanciata negli Stati Uniti? Come la fate dal vivo? Voi non siete stati ancora in America, vi auguro di andare in America. Speriamo presto. Però... dal vivo come la eseguite? Esattamente come la senti nel disco, nel praticamente disco, sì. Cioè non ci sono delle variazioni? No, di solito le band improvvisano, cioè creano, allargano il discorso. Sì, le band che hanno magari una storia di soli 11 mesi come questo noi. Questo è vero. Noi in questo momento non ci possiamo permettere, se vogliamo, di stravolgere dei brani che ancora non sono conosciuti al punto tale da poter essere stravolti. Giusto, hai ragione. Ci riserviamo di farlo nel momento in cui dovessimo fare il salto di qualità. L'idea è quella, cioè quando uno ha un background, cioè ha qualche anno alle spalle, il pezzo che conosce benissimo lo allarga, lo sviluppa, fa una jam session. Lo adatta all'ambiente. Esatto, lo adatta al pubblico. Per ora cerchiamo di proporlo per com'è. Ho capito. Nel momento in cui avremo, diciamo, un ritorno. Ma c'è già un ritorno. Sì, ma non live. Un live, certo, un ritorno. Cioè, parliamo un metodo di ritorno americano, cioè questi contatti che voi avete avuto praticamente. Sì, noi fortunatamente, questo veramente è un qualcosa di inaspettato, perché abbiamo quasi per caso, innanzitutto specifichiamo che questo album è in distribuzione digitale. Noi abbiamo scelto il canale della distribuzione digitale perché ci crediamo. Siamo convinti che sia il futuro fondamentalmente della discografia, anche perché c'è un fattore fondamentale. La distribuzione digitale, e quindi la possibilità da parte dell'utente di scegliere il brano o i brani da scaricare, permette all'utente appunto di scegliere solo i brani che ritiene opportuno scaricare, quindi è più onesto come rapporto tra artista, etichetta e utente finale, e in più invoglia l'artista a produrre un album che almeno a proprio giudizio sia di livello. Sì, non gli scarti praticamente. Esatto, non esistono più i riempitivi, i riempitivi non verrebbero mai scaricati. Esattamente. Quindi questo è sicuramente innanzitutto una sorta di patto di trasparenza che si ha con l'utente. Con l'utente. E con un disco di esordio che vuole essere l'attacco a un mercato, chiamiamolo così, insomma, come dicono i manager, quelli che fanno economia, chiaramente... bisogna puntare ad avere dei brani che siano efficaci da questo punto, tutti i brani che siano efficaci da questo punto di vista. Poi è chiaro, ci sarà quello più scaricato, quello che rincontra più i gusti, eccetera. Noi abbiamo provato quasi per caso, tramite il nostro sito MySpace, possiamo dirlo. Sì, certamente, questo, possiamo dirlo. A contattare, diciamo, a proporre la nostra musica a un certo numero di utenti americani, e il discorso si è allargato in pochissimi mesi a macchia d'olio. Siamo passati da un numero di ascolti giornaliero di qualche centinaio, neanche. Non arrivavamo a 200 ascolti giornalieri, attualmente siamo attestati intorno ai 1500 ascolti giornalieri. Cioè, è un motivo di vanto, certo. Anche perché altri artisti italiani come noi, anche ben più famosi di noi, non raggiungono assolutamente questi livelli di ascolto. Molto, molto positivo. Attualmente siamo, diciamo, in 11 mesi, 10 mesi di MySpace, abbiamo raggiunto quota 250.000 ascolti quasi. E 20.000 contatti. E 20.000 fan iscritti al sito, con messaggi che arrivano tutti i giorni. Perfetto. Gente che ci contatta, che ci fa i complimenti. È un qualcosa di incredibile, inaspettato. Adesso chiaramente stiamo cominciando ad abituare a questa situazione, per cui abbiamo capito che probabilmente c'è qualcosa nella nostra musica, qualche alchimia che a loro piace. Certamente. Quindi è stato casuale, diciamo, anche il contatto. A noi piace l'alchimia. Sono d'accordo con te. Allora, visto che piace, sentiamo la vostra musica. Cosa ci preparate? Okay. Cosa iniziate in live? Con quale pezzo? Iniziamo con la title track. Con la title track, perfetto. Così introduciamo immediatamente il tema dell'effimero. Ok. Hollywood Burns. Rock Wave. L'onda del rock. Somebody looks so pretty on your face. Turn around, the makeup gives my mind so naughty thoughts. I see the malicious way you come around. You fill every emptiness by the wicked games you play. Your Hollywood burns. But no matter what they say, no way to come out. Cause you'll never be the same. Your trust is so frail. Turn your smile into despair. If Hollywood burns, oh, Hollywood burns. For a while it's blind to see what you're really looking for. Tells me more, I guess that's just the way you take control. Just found out to face the truth, you show me eye to eye. But such a waste of time to be the one you care about. Your Hollywood burns. But no matter what they say, no way to come out. Cause you'll never be the same. Your trust is so frail. Turn your smile into despair. If Hollywood burns, your Hollywood burns. Thank you. burns. But no matter what they say, no way to come out, 'cause you'll never be the same. Your trust is so frail, turn your smile into despair. If only wood burns, yo, Hollywood burns. Voilà. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. E voilà, appunto, abbiamo finito il primo pezzo. Posso dire una cosa? L'avete colorato leggermente con un pizzico di blues. Io ho sentito assolutamente così. Sì. Ho sentito così. Bello, a me è piaciuto. Un pizzico di blues che non guasta mai il blues. E non sono finite le sorprese, perché questa è quella più fedele, più fedele, più fedele all'originale, sì, più fedele all'originale. Figurati le altre, però il pizzico di blues piace, sì, perché blues è come poi acustico tutto. Rende, esatto, poi blues è il padre di tante cose, quindi certo. Sviluppa tanti concetti, è il padre del rock, insomma. È il padre del rock, sono d'accordo, sviluppa tanti concetti, tanti orizzonti. Ho letto nelle vostre biografie, tu cosa fai col metal industriale praticamente? Allora, diciamo, io un metalmeccanico. Allora, diciamo, io oltre a loro ho anche un'altra band, Metal Industrial, e totalmente differente da questa. Beh, chiaramente, sì. Posso chiederti, ma che cos'è il Metal Industrial? Il Metal Industriale? Io metal lo so, però per i nostri ascoltatori lo devono sapere. Allora, il Metal Industriale è una derivazione del metal, utilizzando suoni e concezioni molto, come dire, quasi dance. Quindi con sonorità da discoteca, possiamo sì, dirlo così, certo, techno. Ecco, noi mettiamo noi, adesso sto parlando per un altro noi della band, noi dell'altra l'altra band, mettiamo la techno nella musica metal, ecco. Ho capito, cosa è, gruppo... Quindi hai dei quando sei stanco, quando hai momento di riposo con il New Disorder, ti diverti, ti diletti, esatto, esatto, a giocare col metal industriale. Tu ti dilettavi a fare aprire qualche concerto di un gruppo, di alcuni gruppi stranieri, ho letto da qualche parte. Sì, diciamo, la mia band passata facevamo cover band, insomma, cover anni 70, anni 80. Credo che abbia segnato l'Inter. L'hanno comunicato in diretta, sì, che ha dato l'Inter, che è in finale. L'Inter è passata in finale. Siete contenti? Ah, certo. Di io sono contento. Beh, ok, no. Dimmi, scusami, questo incrallazzo sportivo. Appunto, facevamo, diciamo, canzoni cover anni 70, 80 e qualcosa anche degli anni 90, e abbiamo cercato appunto di aprire dei concerti a gruppi stranieri. Un inglese, mi pare. Sì, una... lui ha fatto... Dimmi. È un po' timido. È un po' timido. Ma lo diciamo. Praticamente ha suonato in alcune tappe italiane di un gruppo che è venuto a suonare con la nostra precedente band, perché anche noi avevamo una band. Che precedente. Band? Come si chiamava la vostra precedente? Blackjack. Blackjack, esatto. Con Beats, il chitarrista, siamo insieme da 10 anni. Troppi che siamo anni. Insieme, tantissimo. Si fa sentire anche vecchi questa cosa. Abbiamo suonato noi con quest'altra band che non aveva un bassista. E c'era lui. E il turnista li abbiamo procurato noi. Ah. Gli è piaciuto talmente tanto che sono portato a presso. Sono accaparato per tutta la tournée. Bello, bello, positivo. E abbiamo parlato dei trascorsi del nostro bassista, dei trascorsi del nostro chitarrista, di te. Manco io. Hai parlato poco. Ho parlato poco. Adesso devi dire adesso capo, devi colorare. Il boss deve dire qualcosa. Devi dire qualcosa. Al boss. Vai, boss. Puoi fare sui fatti. Più sui fatti, sì. Dimmi allora. Beh, le mie precedenti esperienze come... diceva Francesco, con Fran, sì, sono legate ai Blackjack. Che musica facevamo i Blackjack? Noi facevamo musica... Duretta? No, diciamo totalmente differente da dall'attuale progetto. Musica che piace a te? Sì, musica prog. Che... Prog, rock, secco. Prog in italiano. Bello, è difficile fare prog in italiano. Non tutti i pezzi erano con stile prog, insomma, non tutti, insomma, sì. Anche rock classico. E in questa band noi abbiamo militato, tra virgolette, da penso dal 95 se non ricordo male, però parecchio tempo bambini. Allora dal 95, vabbè, non un bambino, con continuità, un compagno di classe al liceo, e vi siete fatti le ossa praticamente. Ci siamo fatti le ossa, abbiamo fatto, siamo nati inizialmente con una band cover, poi abbiamo iniziato a fare i nostri pezzi, abbiamo suonato in tanti locali di Roma, e però poi insomma il progetto è terminato e fortunatamente ne è partito un altro ben più importante, un altro che praticamente congloba tutti i diversi input, il metal strutturato, forse diciamo tecno, col meta industriale, il vostro prog, mi piace pensare che tutte le nostre esperienze siano servite per arrivare a questo punto. Secondo me sono servite per arrivare al disordine, per sviluppare questo discorso qua. È un discorso interessante, cioè prendere tutti gli input, tutti i riferimenti, tutti i punti di vista musicali, riprenderli e fanno un disco. Perché una cosa che ho notato in queste nove tracce di questo disco, esiste la melodia, viene fuori, è un po' nascosta perché ci sono dei riff potenti, ma esiste e si estrinseca assolutamente. Questo noi abbiamo sempre un occhio fermo, fisso sul discorso della melodia, perché per noi, ma poi ci viene in maniera naturale, perché è vero che ci piace lo stile rock progressive, ci piacciono i bei riff di chitarra, insomma, io e Giordano, sì, è bello, i bei riff di chitarra sono belli, interessanti, siamo un po' pazzoidi da questo punto di vista, però poi la melodia è dentro di noi, per cui viene messa in maniera naturale all'interno del pezzo, ed è quello forse che ha catturato, tra virgolette, insomma, parte del pubblico anche americano, che comunque sì, è vero che è legato alla musica, sì, però la solità, però la melodia, diciamo, deve rimanere anche un po' impresso, il famoso discorso del mood, esattamente quello che è proprio questo. E qua proprio in questo momento qui a Rock Wave l'avete strinsecato bene la melodia, visto che non è possibile fare l'elettrico, o meglio era possibile, però era molto difficile, molto complicato, essendo una radio, quindi una stanza è questa. E la trasposizione in acustico è stata una trasposizione ottimale, pensata, ma andata via. Cioè, la melodia che non ha snaturato la vostra natura, se mi è consentita l'espressione, è rimasta così. Si adatta, l'acustica, diciamo, ma si adatta. Se la melodia funziona, è più facilmente adattabile a qualsiasi tipo di arrangiamento. Questo è un discorso abbastanza universale. Cosa dite? Facciamo sentire la terza traccia dell'album? Sicuramente, d'accordo? Sì, benissimo, sentiamo la terza. From the Dark. Esattamente, ricordiamo Rock Wave dal vivo con i New Disorder. Ci potete sentire e vedere stasera con le nostre telecamere ben predisposte. Quindi la terza traccia del disco ne parliamo dopo, tanto sentiamo, ok? Rock Wave, l'onda del rock. I was afraid to lose my mind, so scared of believing all I was fighting for. Crouching in the corner, you found me on my knees. I felt so frail to cross the Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo sentito questo pezzo. Mentre il pezzo andava, Fran si discuteva con Fran e anche con gli altri membri della band. Che tensioni emotive e sonore ha questo pezzo? È un po' strano, un po' contorto, in senso positivo. Pezzo che va un po' fuori da quello che è il tema fondamentale del disco. Cioè mantiene, soprattutto nel testo, lo stesso tema fondamentale. In particolare quello dell'amore acerbo. Certo. In questo caso si sente più forte questa componente. Come sonorità è diverso perché, ad esempio, nell'intro c'è una componentistica elettronica che negli altri pezzi manca. Esatto, sì. E quindi... per citare una band che può avere questo tipo di sonorità, ricorda un po' i Linkin Park, diciamo, della non dell'ultimissima ma della media produzione, non la primissima ma quella, diciamo, intermedia, intorno al 2003-2004, intorno ai 7-8 milioni di copie. Esatto. Sì. Ci auguriamo che anche l'esito alla fine possa essere, non dico lo stesso, ma possa percorrere parte di quella strada. Buon per loro. Sono esplosi in modo incredibile. Hanno venduto anche quelle che avremmo dovuto vendere noi, fondamentalmente. E un ritornello invece che apre fortemente con delle sonorità molto gothic, in un certo senso. Evanescence, lo dicevi. Esatto. Evanescence è un grande gruppo che ha fatto un disco bellissimo. Durato pochissimo, ma tanti milioni di copie in tutto il mondo. Non si sa che fine abbia fatto. Chiaramente il nostro obiettivo era quello di vendere altrettanti milioni, i milioni di copie dei Linkin Park e più quelli degli Evanescence. Quindi un obiettivo da niente, insomma. Molto su. Noi abbiamo sempre ragionato per obiettivi. Tornando a discorsi seri, chiaro. Queste due componenti che poi li sviluppate voi, praticamente, la vostra conoscenza, il vostro modo di sviluppare il discorso. Esatto, con una matrice metal che sta nell'arrangiamento di chitarra, che è tipicamente con sonorità metal. Perché qualcuno è metal qua. Sì, assolutamente. Anche quel bassista è metal. Te no, tu sei progressive, anche Fran è progressive. Ma c'è poca divisione, cioè la divisione è vostra. Il metal cosa vuol dire? Vuol dire assolutamente niente. In realtà ti devo correggere, permettimi. Io ho subito un'evoluzione nella mia carriera di ascoltatore. Parliamo di ascoltatore. Quindi poi dopo ne parliamo. Ne parliamo quando più avanti. C'è il giochetto verso le 23. Ah, c'è il giochetto. Sì, parliamo anche di questo. Però perfetto. Era un bozzolo all'inizio. Però attualmente io sono molto orientato verso una tipologia di metal. Non tutto. Metal è molto vasto, però. Sì, esatto. Molto vasto. Verso una tipologia di metal melodico che va per la maggiore negli Stati Uniti, ma che purtroppo si sente poco in Italia. In Italia, ho capito. Ma il problema fondamentale è che a noi ci piace e quindi lo secondiamo. Ah, ok. E poi il bello è che nascono queste canzoni qui. Esatto. Da follie pure. Da follie pure nasce un pezzo di successo. Speriamo che sia di successo. Diciamo che tra di noi è di successo. Siamo dei fan accaniti dei nostri brani. Ci piacciono. Certo, ma è giusto che sia così. Ma il pezzo di successo, il pezzo che la gente recepisce, che è accattivante, è fatto da tante componenti. Il metal può anche essere. A me, io personalmente, il metal non è le mie corde, assolutamente. Di metal, se mi hai consentito il termine, forse impropriamente, definisco metal i Metallica, quelli dell'album Black Album, quello mi piace in modo indefinibile. Io anche a me. Confluiscono là e basta. I Metallica sono quelli. Quella è una parte di metal. Amo quel metal. Che anche delle drame melodiche. Magari insomma, dopo, alla fine della trasmissione, ti segnalo qualche. Ecco, perfetto. Dopo te ne segnalo altri miei. Certo, facciamo uno scambio. culturale. Sono le 22:53 quasi. Diretto a rockway.altervista.org. Quindi ci potete vedere e sentire stasera con i New Disorder, con questo gruppo che è venuto da Roma. E chiaramente è venuto da Roma, deve suonare. Cosa suoniamo adesso? Beh, adesso vi facciamo sentire il pezzo forte, Escape. Che avete sentito nella versione originale, adesso la risentiamo rivisitata, opportunamente per poter essere eseguita in acustico, qui esclusivamente per voi. Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Call my name, I'm here, ready to follow you to hell. Show me how you dare. Ask yourself why. Ask yourself why. I feel you like blood running through my veins. Underneath my skin, got the same feeling. Got the same feeling. Set it on fire and let it burn. Set it on. You can't kill the flame when it's too strong. So let the ice melt down from your hands. Oh, save it for another day. Escape, don't stay here. Better don't confuse. Get down to the right track. Better you don't walk that line. Abuse your destiny, abuse your time, abuse yourself. Ooh, set it on fire and let it burn. Set it on. Can't kill the flame when it's too strong. So let the ice melt down from your hands. Oh, save it for another day, yeah. Sono le 22 e 56 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco, vi avete sorpreso perché avete fatto una versione folk, secondo me. Folkeggiante, è una cosa bellissima, partendo dal progress, dal metal, quello possiamo dire quello che vogliamo. Pensavo dicessi folle, da come era iniziata. Esattamente, l'avete colorata, se mi è consentita l'espressione, le due chitarre acustiche, la tua voce, che un po' vibrava la tua voce, proprio dal folk. Sì. Somigliava molto al folk, il folk è una corrente musicale che io amo particolarmente, l'avete riproposto in versione folk, sono molto contento, avete rifatto il pezzo praticamente. La melodia, l'impostazione è sempre quella, certo. Però si sviluppa. Si crea, si costruisce qualcosa di diverso. Complimenti, veramente bellissimo. Guarda, ti aggiungiamo una cosa. Questa è una informazione proprio. Un'anteprima assoluta. Un'anteprima che la diamo qui in onda. In diretta, tutto in diretta, 22:57. E quando l'abbiamo provata questo pezzo, ci è piaciuto talmente tanto, abbiamo deciso di registrarla. Sono d'accordo. In questa versione. Sono d'accordo con te. Per cui avremo tre escape. Esatto. Questa sarà escape part 3. Esattamente. Perché già l'escape number 2 non aveva questi input, però ci poteva stare insomma. E lentamente poi vedi, siamo arrivati a questo. Io sono molto contento di ciò. Non so se ho contribuito in senso così indirettamente, sicuramente sì, perché il fatto di averci proposto di venire qui a suonare questi pezzi in acustico ci ha permesso di capire che questo pezzo si adatta benissimo all'acustico. Esatto, vi abbiamo spronato nel senso positivo del termine. Quindi è una bella cosa, secondo me. Assolutamente sì. Cosa. Escape Number 3 sarà è l'evoluzione dei New Disorder. Può essere in questo senso? Sarà no? Una delle evoluzioni. Cioè, noi ci evolviamo non in un'unica direzione, ma in più direzioni. Bene, bene. Sono molto contento di questo. Con un filo conduttore sempre chiaramente comune. Però filo conduttore è un esperimento quello. Che ci è piaciuto e sicuramente lo riprenderemo. Perché era in maniera... molto interessante le due chitarre acustiche, il basso che dava l'input e poi la tua voce che vibrava in qualche momento. E fa parte del gioco, il gioco acustico. Il gioco delle 22 e 59. Fra poco ci siamo al giochino. Al giochino? Siamo quasi. Ci da portare sul grande deserto. Ci dobbiamo pensare. Ci pensate 10 secondi, perché adesso sono le 23 praticamente. Allora chi tocca? Chi comincia? Inizio io, dai. Dai, vai. Visto che ho parlato poco. Vai, hai parlato poco, ti riprendo. Allora, vediamo un po'. Dunque, io porterei. Images and Words dei Dream Theater. Ah, come mai un gruppo estremamente complicato nel senso positivo del termine, pieno di tanti riferimenti seguiti anche da tanti altri. Beh, perché insomma, quanto chitarrista ho come bravissimo. Riferimento Gian Petrucci, quindi per me lui è un mito, insomma, bravissimo. Per cui ecco, poi è un album che secondo me è un po' come tentiamo di fare noi. Ha sempre un occhio anche alla melodia, certo. Oltre ad avere dei virtuosismi insomma di altissimo livello. Quindi questa è la prima selezione, il primo pezzo che hai scelto. Dopodiché porterei The Wall dei Pink Floyd. Perché il periodo The Wall, questa opera rock di Roger Waters? Perché comunque, non so, evidentemente forse rientra un po' nel discorso dei ricordi a cui faceva riferimento Francesco, perché... Senti sottofondo? Senti qualcosa? È arrivato. Inconfondibile. Basta, sì? Ok, allora se mi mandate su un'isola deserta dopo la trasmissione so dove prendere il CD. Benissimo, The Wall dei Pink, allora. The Wall dei Pink Floyd, poi credo... Selling England by the Pound, bello, dei Genesis. Bello, quello è bellissimo, bellissimo. Io ricordo... Insomma, diciamo... Per portarmi un po' di storia, di le colonne portanti del rock prog. Io sono decisamente più vecchio di voi, chiaramente. E se l'England by the Pound me la ricordo nella versione in vinile, si apriva, e i testi in italiano di Armando Gallo, famoso Armando Gallo, l'ha tradotto lui, li ha scoperti, lui li ha portati in Italia. Armando Gallo era un giornalista di Ciao 2001, una testata romana, voi... neanche nati probabilmente, è scomparsa da un sacco di tempo questa testata, è una cosa meravigliosa. E Selling England by the Pound, questo grande grandissimo disco dei Genesis tradotto in italiano da Armando Gallo, ebbe più successo in Italia prima e poi negli altri paesi. Il successo è stato italiano, come i Van de Graaff Generator, altro gruppo progressive fantastico. Quindi seconda, terza selezione, dunque poi porterei Live at Wembley 86 di Queen. Vabbè, ok, sono davanti. Dimmi. Live at Wembley 86 di Queen. No, ho capito, scusami. Live at Wembley 86 okay, di perfetto, Queen. Perfetto, perfetto. Uno dei tanti live dei Queen. Queen, perché comunque per me rappresentano comunque un punto di riferimento nel mio percorso musicale. Certo. E per ultimo penso il Black Album dei Metallica. Dei Metallica che abbiamo citato prima, c'è un pezzo favoloso dentro, famosissimo, incredibile, che è stato citato anche da Masini, l'ha ripreso in Italia, non so se lo sapevi. Non possiamo parlare di altro. No, parliamo solo di quello. L'ha ripreso anche lui, niente di straordinario. Sì, lo so. Ha fatto una cover. Lo so. Lo so, ha fatto una cover. Beh, cioè, eccola. Meravigliosa. No, tocca a te. Allora, diciamo il primo album è Made in Japan dei Deep Purple. Grande disco live. Perché dei... comunque. Non sei parpoliano te però, sì? Sì. Sei parpoliano. Vengo... D'altronde è l'anziano del gruppo. È l'anziano del gruppo, esattamente. Diciamo, vengo da lì, mi ci ha portato comunque i primi passi, diciamo, con la musica, mi hanno portato verso questo tipo di musica, insomma, una musica forte, che poi è basata, insomma, sulle scale... sugli accordi semplici, sulle scale musicali semplici, però... fatte in modo, insomma, egregio, E un sound, insomma, per essere gli anni 70 molto aggressivo. È ancora buono adesso, sì, perché Deep Purple sono ancora in giro, eh. Esatto. Fanno esatto, tournée, esatto, in Italia, esatto, sono molto amati, esatto, anche in Europa, moltissimo. Diciamo, meglio di tante altre. Sì, band, indubbiamente. Insomma, sono ancora, sì, a 60 anni riescono a, e riescono a gestire, a impressionare. A gestire. Certo, impressionare, stare sempre sull'onda, come si, esatto, dice. Esatto. Poi il secondo disco è The Dark Side of the Moon. Quello, i Pink, Pink classici, i, esatto, Pink di mezzo. Lui ha scelto The Wall, disco più... Sì, anche, più, anche più, World, più, diciamo, più di concetti. The Dark Side è un disco solare, un po' cupo in alcuni momenti, sì, ma, perché ma è fantastico. Comunque ha varie chiavi, cioè, diciamo, parte dalla chiave diciamo del respirare, di prendere la vita come viene e di poter prendere le redini. Ecco, eccolo sta in sottofondo. Eccolo qua. Esatto. Diciamo, mai, parte da una canzone come Brett, certo, che comunque dice di poter prendere le redini della propria vita quando si vuole, insomma, senza nessun problema, cioè respirare è l'unica cosa che conta, esatto. Poi passa, insomma, al tema dei soldi, al tema della pazzia, cioè i temi fondamentali della vita, i temi fondamentali di Roger Waters, sì, chiaramente, sì, che poi, è sempre, cioè, stato lui che secondo me sono i temi fondamentali, cioè, sono d'accordo con te, della vita, insomma, di una persona. E poi anche dal punto di vista grafico è una cosa meravigliosa, sì, è rimasto, sì, tanti anni in classifica di Billboard in America, quindi ha superato tutti i record, un disco, sì, classico, sì, chi, sì, non ha comprato The Dark Side, tutti quanti? Io ho ancora il vinile di mio padre. Ma lo sapevi, ma tu lo sai benissimo, lo sa anche Michele, si comprava per provare gli impianti stereo The Dark Side, per provare le sonorità. È sempre sì, più comunque... complicati gli impianti, sempre più perfezionato il disco, cioè con delle sonorità. Ha delle sonorità che ancora, diciamo, è vero, è verissimo. Ha delle sonorità che per certi livelli sono ancora irraggiungibili. Certo, diciamo, sono d'accordo con te. Delle sonorità particolarissime. Quindi La scelta numero 3 è un album completamente diverso, però di una band che mi è sempre appassionato, e è Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Perché, diciamo, inizialmente mi sono indirizzato su una musica rock, hard rock. Poi, andando avanti e continuando a studiare il basso, mi sono più appassionato, senti, diciamo, al... Ecco qua. Esatto. Okay, vedi, che basso. Mi sono più appassionato, diciamo, alla musica funk rock, e certo, partendo sempre dai maestri, dal James Brown, certo, e insomma, tutta la compagnia che ne segue. E quest'album secondo me fonde bene sia il rock sia il funk, sì, e diciamo il basso gioca una componente importante. A me piaceva tantissimo, mi è sempre piaciuto e rimane per me l'album più prezioso musicalmente parlando, è Californication. Sì, anche quello mi è rimasto dentro. Diciamo che i cinque dischi sarebbero pochi. Sono pochi. Il quarto disco, sì, che diciamo è quello che ho scoperto anche suonando con la band. Con la band. Che però mi è entrato subito in testa e non riesco più a togliermelo dalla testa, diciamo. È Black Holes and Revelations dei Muse. Ah, dei Muse. E Muse è una componente importante, ideale vostra, mi pare. Sì, sì, sì, sì. Cioè, pezzi come Starlight, certo, che magari sembrano, cioè, tolti. Eccola, esatto, eccola qua. Tolti gli effetti sul basso, tolti gli effetti sulle chitarre, sembra quasi un pezzo semplice. È vero. Però gli effetti, quella chiave insomma un po' moderna, gli danno proprio quello che è il sound dei Muse. Muse è un grande gruppo, c'è, esatto, poco da fare. Da vivo è un gruppo strepitoso. E poi il quinto disco. Il quinto disco, che è un disco che ha detto anche il nostro chitarrista. È sempre Live at Wembley 86. Cioè, volevo dire A Night at the Opera, sì, dove c'è Bohemian Rhapsody. Sarebbe per regolamento di questo gioco, le copiature non valgono. Di disco. Allora elimino e metto elimino Live at Wembley. Perfetto. E metto A Night at the Opera, perché secondo me il pezzo più bello nella storia della musica. Freddie Mercury era al massimo. Secondo me il pezzo più bello, cioè lo dico proprio senza peli sulla lingua, cioè Bohemian Rhapsody. Eccolo. Sì, continuiamo. È Bohemian Rhapsody, sì, comunque, perfetto, dei Queen. Sottofondo. comunque un pezzo fantastico che racchiude musica classica e rock, qualsiasi genere musicale è dentro quella canzone. E poi Freddy erano proprio avanti loro. Sì, Freddy faceva un'esibizione strepitosa, incredibile. Non è mai stato superato come cantante. C'è poco da assolutamente. No, è eccezionale. Quindi per me solo quell'album vale tutto. Vale il disco, insomma. Certamente. Tocca a me? Tocca a te, il nostro cantante. Allora, adesso io vorrei, anche perché sono un po' dispettoso di mio, mettere alla prova il nostro DJ. Però io non dico niente assolutamente. Non lo vedo, cercando, è scomparso. Cercando pezzi, album particolari. È un po' difficile questo. No, però non andrò sul classico, più o meno, forse meno classico di loro. Allora, il primo, vorrei andare per ordine di tempo. Certo. Vediamo se sono anche preparato sugli anni. Benissimo. Allora, il primo che mi porterei appresso è quello che secondo me è il vero disco più bello dei Queen, che è del 74 ed è Queen 2. Ah, Queen 2, sì, ok. È già rockettaro, cioè abbastanza duro. Sì, è di matrice Led Zeppeliniana. Sì, Zeppeliniano, sì, esattamente. Il secondo che mi porterei appresso è del 99, quindi facciamo un bel salto. Certo. Mi sembra che sia 99, sì. Sì. Ed è Post Orgasmic Chill degli Skunk and Nancy. Ah, bello quello, molto bello, molto bello, molto bello. Si sono riformati dopo un po' di tempo. Non si sono riusciti a ripetere, secondo me, perché quel disco veramente sono delle tracce una più bella dell'altra. Come dicono, non so come tradurlo, però in inglese si usa il termine mesmerizing. Sì, vero, hai ragione. Assolutamente sì. Quando hanno una front woman, si chiama così, eccezionale spin, come quella, senza, una carica, tra l'altro senza tempo. Esattamente, una carica ha mantenuto la stessa identica voce dopo 11 anni, è identica, è anche identica di aspetto, non cambia assolutamente. Sì, non cambia assolutamente, è una forza della natura, c'è fantastica. Poco da dire. Okay. Poi due dischi del 2001, anno d'oro. Certo. Uno è Toxicity the System of a Down. È bello, duretto, Sì. Mica tanto semplici, infatti, un po' complicato. Te l'ho detto, che comunque a me piace il metal. Certo. Vengo a trovarti sulla tua isola e me lo fai ascoltare ogni tanto. E il secondo disco, sempre del 2001, è The Muse. Sì. Ed è quello che secondo me è il disco più bello di Muse, Origin of Symmetry. Sì, posso essere. Dove c'era la famosa Plug-in Baby. Certo. E altri pezzi degni di nota. E infine andiamo al 2005, sono deciso tra due dischi, volevo fare il dispetto. Possiamo dirli tutti e due. Li posso dire tutti e due, grazie. Dai. Il primo è del 2005 ed è A Beautiful Lie dei 30 Seconds to Mars. Bello, bello, è quello un progress un po' particolare. Assolutamente. Decisamente, molto bravi, sono esplosi tardi. Un po' tardi, però sì. Sono esplosi. Diciamo che quel disco lì, secondo me ci sono dei pezzi... Noi diciamo sempre che nel momento in cui li scrivevano probabilmente già ridevano pensando ai milioni di copie che avrebbero vendute. È vero. Perché è un effettivamente sono molto efficaci. Molto bravi. Oltre che molto belli e molto intensi. Sì, decisamente un... E poi ne dico un altro che è del 2008 questo... Adesso però vorrei vedere se... Se il regista non riesce a peccato. Vediamo il nostro DJ. Ed è un disco che in Italia tra l'altro non è stato mai venduto. Quindi è un po' difficile. Del 2008 si chiama Relativity ed è della mia band preferita. Si chiamano Ema Rosa. Non li conosciamo in questa cosa. Musicalmente che sicuro. Genere si è accesa magicamente la luce come per dire boh. Musicalmente dove che lì li portano? Allora hanno fatto solo due album. Il primo album è fondamentalmente un post hardcore abbastanza pesante. Il secondo è hanno cambiato cantante, sono andati su un sempre un post hardcore con matrice metal, con arrangiamenti anche un po' prog, perché i loro pezzi non hanno strofa, ritornello, non sono strutturati in maniera standard, certo. Ma evolvono. Certo. Quindi hanno un inizio e una fine, un'evoluzione, una storia, ogni pezzo ha una storia, e effettivamente diciamo che in 4 minuti raccontano di tutto. Coincisi. Un cantante molto, molto, molto valido, assolutamente molto valido, secondo me uno dei migliori attualmente. E, sono americani sti ragazzi. Sono americani, sono del Kentucky. Perfetto. E tra l'altro stanno a Roma da poco. Ah, ecco. Andremo a sentirli. Chiaramente sì. E basta, gli ho detti sei. Sì, ne ho detti quindi sei. Mi sono allargato. È il solito. Giordano, tocca a te adesso. Allora, considerando che mi hanno tolto tutte le possibilità di scelta, sarai l'ultimo purtroppo. Sei così. Allora, io sicuramente porterei su un'isola deserta Sacrament The Lamb of God. Sì. Possiamo essere d'accordo. È un po' duro come sì, un po' genere. Duretto, un po' duretto. Però logicamente essendo un bel metallaro. I trascorsi sono quelli. Esatto, un po' di grinta mi ci vuole. Poi porterei The Experience di Jimi Hendrix. Ecco, bello, bello. Adesso è stato ripubblicato, ripubblicato nuovamente, un disco nuovo, assolutamente nuovo, nonostante abbia molti anni sulle spalle, di inediti o quasi rivisitati, eccetera. Cosa ne pensi di questa idea di riprendere un disco di Hendrix per l'ennesima volta? Penso l'avranno fatto una remasterizzazione. Sì, ma sono molti pezzi inediti. 10-15.000 volte. Sì, chiaramente, esatto. Il cassetto hendrixiano, esatto, non è mai... È infinito, esattamente. È infinito. Però, insomma, è risvegliato, Hendrix è sempre stato Hendrix, però ha ripreso ancora un successo che era sempre pronto, il successo, però si è allargato ancora. Guarda, io ti posso dire, dal punto di vista mio chitarristico, è bello, perché tu puoi ascoltare 2000 volte la stessa cosa, modernizzata, riarrangiata, in 2000 modi diversi, e questo quindi ti fa accrescere a livello culturale, proprio a livello culturale di chitarra. Però la speculazione che c'è stata, che ci fanno sopra, allora dato che si fa molto sentire, allora dico no, non lo acquisto. Ho preferisco capito. L'Hendrix, certo, che era Hendrix in vinile. Un chitarrista di un gruppo mesi fa ha detto Hendrix è al di sopra di tutti, cioè, sì. Hendrix è lui, poi vengono tutti gli altri in scala, bravissimo Clapton, Jeff Beck, tutto quello che vuoi, ma Hendrix è Hendrix, non ha rivali, perché era l'inventiva musicale. Hendrix, non so se sei d'accordo. Sì, è nato Hendrix, era... è nato per con la chitarra. Esattamente, senso, è nato con la chitarra. Hai detto lui non era un chitarrista tecnico, non era un chitarrista, era proprio l'espressività dell'essere umano sulla chitarra. Sulla chitarra. Lui quello che rappresentava con la voce, nei gesti, nella gestualità, lo suonava. Esatto. E questo lo ha reso grande. Esatto. E questo che era Hendrix. E per quello Hendrix è così, esatto, e basta. Esatto, è lui. Perfetto, andiamo avanti allora. Poi porterei The Experiment di Wooten, Chambers e... oddio, e manca Gregao, non so, non li conosco. Però Extraction. Che gruppo è questo qua? È un gruppo fusion. Perfetto, non sono molto amante, non è proprio il mio genere fusion. E penso che sia il disco più bello dopo quello di Queen, dal punto di vista del fusion. Dal punto di vista melodico, dal punto di vista d'arrangiamento. Ho capito. Io sono patito poi per queste cose. Perfetto. Ok, poi? Poi, adesso vado sul difficile. Dimmi. Ne ho detti tre, giusto? Sì. Ok. Gli ultimi due sono due best of. Best of. Uno di Diana Krall. Insomma, mica tanto difficile. Brava Diana, se piaci, se ami il jazz e non soltanto il jazz. Esatto. E poi, the best of di Purple. Lui ha detto Made in Japan, esatto, dato che non volevo dirlo. Valgo i best off, se no. Va bene, possiamo essere. Sono best off. Sì, ha vinto l'Inter, possiamo passare. Esatto, mi ha detto. Perché altro che è stato l'ultimo. Allora, è stato per me. Mi ha anticipato Made in Japan. Sei su. Made in Japan. Io ce n'avevo anche un settimo. Made in Japan. Basta. Made in Japan. Basta. Possiamo definire un best dal vivo, praticamente. Possiamo definirlo così, no? Sì. Un best off dal vivo, perché comunque racchiude, cioè ogni pezzo è a sé, sì. C'è il pezzo con l'assolo di organo, certo. C'è il pezzo con ogni strumento dà il meglio di sé in ogni canzone, diciamo. C'è il pezzo dove magari risalta più l'organo, che poi è un suono, cioè l'organo rock che usano i Deep Purple ha un suono che penso nessun'altra band ha, perché cioè anche altre band hanno usato appunto l'organo, ma non come ha usato John Lord. Forse il tastierista degli Yes, però Rick, insomma, con sonorità diverse, sì, comunque rispetto era bravo, era più ancorato, partiva dal folk, poi si è sviluppato, ha fatto un disco tecnicamente forse molto più forte di John Lord, certo, insomma, ha fatto un disco meraviglioso come Le sei mogli di Rico Ottavo, che partiva dal folk, si sviluppava nel rock ed altre cose. Sì, ma adesso stiamo sentendo in sottofondo questo pezzo di Smoke on the Water, è un classico dei classici. Tutti abbiamo cominciato a fare gli accordi di Smoke on the Water, chiaramente. È un classico. Però ad esempio a me, io l'ho visti dato che insomma, da poco tempo. Sono il più vecchio, ma però hai visto un sacco di cose. Il più giovane, tra virgolette. L'ho visti suonare al palaghiaccio a Marino. E e comunque anche se Ian Gillan ha comunque circa 60 anni e anche gli altri componenti del gruppo, a parte il tastierista che diciamo non è più John Lord, ma Donare, sì, mi sembra, e alla chitarra Steve Morse, comunque hanno sempre una grande carica e usano delle note semplici che diciamo tu da musicista che ascolta dici beh questa cosa è semplice, però ti dà una carica che comunque è sempre importante. Cioè fanno esplodere chi è seduto. Sì, là. Sì, sì, non ce la fai sta fermo, insomma. Certamente. Ok, 23 e 18 e 35 secondi. Cosa facciamo? Suoniamo o sentiamo un altro pezzo del disco? Come volete fare? Suoniamo? Beh, suonate, va benissimo. Cosa suonate allora? A questo punto diciamo facciamo il pezzo Last Breath. Perfetto. Che è la quinta traccia che ancora non abbiamo sentito in originale, sentiremo dopo. Ok. Quindi cambiamo, adesso facciamo sentire prima versione rivisitata. Certamente. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Feels like running while we're falling peace. The silence finally will kill me. Got to find a reason to believe. I see your force at goal and scaring me. Cause your eyes won't see. It's still strong enough to be. But I can't stand to fly over it. This pain and anger show what man I am. Don't wait for it. We're breathing our last breath. Wasting time regretting something wrong. I wish I could be one of your battles. Nothing else I leave behind your door. But it's hard to allow, wait for something more. Your eyes won't see. You're still far away from me. But I can't stand to fly over it. This pain and anger show what man I am. Don't wait for. We're breathing our last breath. I walked outside just to be alone. I stopped my mind for a while, for a while. But I can't stand to flying over it. This pain and anger show what man I am. Don't wait for. We're breathing our last breath. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, avete messo in evidenza il ritornello, qua è molto bello, molto accattivante. Avete cioè leggermente calato il ritmo e avete messo proprio che la gente possa sentire, possa captare il ritornello, questa crescita, questo ritornello che porta avanti il discorso. È così? Esattamente. L'idea sì. È stata questa praticamente. Esattamente sì. È sempre il solito discorso, ma non vorrei essere ripetitivo, però alla fine il ritornello è sempre un po' la chiave della canzone, quello che rimane in testa alla gente. cioè noi come obiettivo ci siamo dati quello di fare musica che ci piace sicuramente, assolutamente, ma che fare anche musica che possa in qualche modo arrivare ai singoli ascoltatori, non solo a chi magari mastica musica dalla mattina alla sera o da tanti anni. Devono essere il più possibile immediati, e il modo più efficace è avere un ritornello che sia in qualche modo penetrante, cioè, che subito prenda l'ascoltatore. In tutti i pezzi noi cerchiamo di avere un ritornello che possa essere ricordato. Certo, questo è importante. Questo è un obiettivo che ci siamo sempre dati nella musica. Il bello è che ce ne rendiamo conto dopo che abbiamo fatto un ritornello che rimane, perché questo è importante. Sì, è vero, perché ci viene in maniera naturale, non partiamo dall'idea di, non ci mettiamo seduti a tavolino e diciamo, certo, adesso scriviamo un ritornello che sarà il successo del secolo. No, noi facciamo il pezzo e poi ci rendiamo conto mentre lo completiamo, mentre lo componiamo, che insomma che gira, come si dice, gira esatto, la domanda che ci si fa alla fine del pezzo, se gira o non gira, che ritornello... ci guardiamo, si gira, se potrebbe girare meglio l'inciso, sì, l'inciso. Si chiama inciso, no? Si chiamava ritornello, è la stessa cosa, sì, praticamente. Sì, se riesce ad essere buono, va bene, cioè può trascinare il pezzo, questo esatto, è la chiave di tutto. A proposito di pezzi, ricordiamo, se vi ricordate voi, le date prossime che avete a disposizione. Allora, sì, siamo nel vicino Roma. Sì. Abbiamo un paio di date vicino Roma. No, allora, una vicino Roma è il 13 maggio, giovedì 13 maggio, se non sbaglio. Correggetemi. Se... 14. No, il 13. 13 maggio, tra l'altro ce lo dobbiamo ricordare perché lui torna da un soggiorno estero. Ah, però. Arriva la mattina e la sera suona. Vai in vacanza, complimenti. Quindi penso faremo una prova tipo in webcam. Benissimo. La sera prima. E il 13 maggio alla Lucciola, che è un locale che si trova a Pomezia, vicino Roma. Vicino a Roma, circa sì. 40 km da Roma, più o meno. Roma, sì, certo. Poi siamo il 23 maggio in piazza nella città di Forano, in provincia di Rieti, che francamente non conosciamo, cioè non sappiamo come ci si arriva, dobbiamo ancora studiare il percorso. Percorso. E dopodiché abbiamo delle date ancora non fissate in locali finalmente a Roma, quindi finalmente suoneremo anche in casa, perché finora non abbiamo mai suonato in casa. Sempre fuori praticamente. Sempre fuori. E verso la fine di maggio dovrebbe esserci una data al noto locale Jailbreak di Roma, che è uno dei più famosi. Benissimo. Però ancora non sappiamo se è il 29 o il 30 di maggio. Ho capito. Una cosa che vi volevo chiedere, avete uno studio dove vi ritrovate per trovare i pezzi? Tutti quanti il dicono, covo, ritroviamo il cosiddetto qua, covo. È in un covo, in un covo. Il covo è praticamente la dépendance di Giordano. Di Casa Gio Santità. Perfetto. Casa Gio Santità, in cui prendono vita questi ritornelli, così come tutti i brani. Precisiamo questo. Dimmi. I brani sono prodotti da noi, nel senso che sono registrati direttamente da noi. Siamo noi che alla fine decidiamo come mixarli, che tipo di suoni utilizzare. Non abbiamo un produttore esterno. Distribuiti sull'album, se posso approfittare per ricordarlo, certo, a tutti quanti sono in ascolto, il nostro album Hollywood Burns, queste famose 9 tracce, è distribuito da un'etichetta indipendente, ma è comunque prodotto da noi, quindi diciamo l'etichetta distribuisce il prodotto che viene direttamente dalle nostre menti e dalle nostre mani, anche dalle vostre tasche praticamente. Diciamo che fondamentalmente ci siamo attrezzati, abbiamo dovuto fare un investimento preliminare per poter poi utilizzarlo a questo fine, per produrre dimmi. Dico, questo quindi è l'iter. Poi i brani non nascono tutti insieme, tutti nello stesso modo, ognuno ha una sua storia, però fondamentalmente prendono forma, la loro forma definitiva, sempre in questo covo. Questo nella dépendance di Casa Gio Santità, qua, in Gio Santità Studios. Siete già pronti? Avete già tutto predisposto? Già suonate? Già tutto di getto oppure no? In che senso? Cioè, quando arrivate nuovo? Nel covo praticamente... Dipende dalla situazione. Spesso si evolve, diciamo, lì. Direttamente lì. Perché, ad esempio, magari uno ha un'idea, un'altra... il chitarrista o comunque Francesco ha un'altra idea. Certo. E si provano entrambe e a parere di tutti si vede quella che, insomma, funziona meglio, appunto a parere di tutti, non singolarmente. Di uno solo. Esatto. Esattamente. Esatto. Siamo molto sul primo impatto, noi ci tariamo moltissimo sul primo impatto. Di solito il primo impatto è quello che ci convince di più. Se a primo impatto funziona. Benissimo, dimmi. Sì, un'ultima cosa. La nostra fortuna, possiamo dire così, è che avendo lo studio in casa, noi abbiamo la realtà del prodotto che poi prodotto, musica, quello che sia, che vendiamo direttamente davanti ai nostri occhi, perché riusciamo ad ascoltare ciò che noi facciamo. Ah, ho capito. Quindi diciamo, non è come un gruppo normale, se posso dire. Non siamo normali. Non siamo normali. Nessuno l'ha mai messo in dubbio questo. Non è come un gruppo normale che piace quello che fa nel box. Diciamo, io suono il mio pezzo, mi piace perché lo sto suonando io. Ma noi abbiamo subito la realtà del fatto. Registriamo. Il pezzo è efficace? Sì? No. Ok. Ho capito. Ci mettiamo nei panni dell'ascoltatore, di fatto. Noi siamo già dalla parte dell'ascoltatore, non siamo mai dalla parte del musicista. E questo forse è la buona riuscita del disco. Nel nostro spot questo. Questa diciamo è una fase di produzione, poi invece le prove per i live... Quindi tutti gli ascoltatori, ricordate, noi ci mettiamo nelle vostre orecchie. Esatto. Prima di fornirvi il prodotto. Se piace a noi, piace a voi, ok, chiaramente può proseguire. 23, 20, 28, quasi 29. Facciamo sentire un pezzo dall'album adesso. Sì. Cosa dite? Che traccia volete farvi sentire? Io salterei alla title track. La title track. Che abbiamo già sentito prima, sì, in versione acustica. Vediamo quale tracce. La numero 6. La traccia numero 6, allora. Hollywood Burns. Sempre il L'effimero. New Disorder. Sì, esattamente. Sempre il New Disorder. Sempre dal vivo. 23, 29 e 16 secondi. Stiamo andando verso la mezzanotte, ma abbiamo ancora tempo da sentire e da parlare con voi. Adesso sentiamo la traccia del disco in ogni caso, ok? Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, discutiamo mentre il pezzo andava. Più che metal, io lo vedo, lo sento come un pezzo rock, assolutamente rock. Cosa dite? Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, appunto. Ci sono alcuni momenti che richiamano un po' forse il power metal, sì, nel ritornello, però fondamentalmente è un pezzo di matrice rock. Certo. È uno dei primi pezzi che abbiamo scritto. Appena iniziato, appena sì, la band si è formata. L'idea Hollywood Burns. Ecco, questo per esempio è un pezzo, questo l'ho scritto io, certo, come melodia, anche se poi l'arrangiamento è stato totalmente stravolto, grazie a loro. Che inizialmente questo era un pezzo nato con la chitarra acustica, in versione totalmente acustica, un rock acustico, diciamo così. E c'avevo questa melodia, questo ritornello che mi girava per la testa. Secondo me questo funziona. E quindi ha funzionato, chiaramente. Sì, perché tra parentesi la canzone è nata tutta insieme. Cioè il testo è stato scritto nel giro di 7 minuti, più o meno 8 minuti. Ah, velocissimo. Sì, perché è venuto quasi di conseguenza. Ogni parola veniva di conseguenza con l'altra. Quindi è un pezzo nato diversamente rispetto a tutti gli altri. Non ce ne sono altri che sono nati così. Questo è arrivato già confezionato, come diceva il buon Vasco Rossi, le canzoni nascono da sole. Beh, nel caso nostro non sempre. Questo è uno di quei casi, forse è l'unico. Bene, tu avevi detto una cosa mentre il pezzo andava, di salutare qualcuno. Adesso vi salutiamo allora, cosa dite? Ti ricordi? Ah, ok, sì. Dobbiamo salutare, visto che abbiamo parlato dei nostri sostenitori americani. Made in USA. Made in USA, dobbiamo dire qualche parola per salutarli, sennò... poi altrimenti pare che facciamo una trasmissione solo per gli italiani. Certo. E probabilmente ci stanno seguendo in streaming in questo momento. So we wanna thank all of you guys and girls that are following us from all over the world. We really thank you so much and we appreciate a lot your support. Keep on following us and hope to see you one day in front of the stage. We love you. Perfetto. Anche se non c'è la traduzione si è capito, presso poco quello che era abbastanza semplice. Era abbastanza semplice quello che volevi dire. Quindi ci sono questi fan americani, europei. Avete qualche contatto anche con oltre l'Italia, chiaramente? Qualcosina, sì, nell'Europa del Nord principalmente. Sì. Germania, Svezia, Danimarca. Abbiamo dei brani che sono trasmessi da un'emittente radiofonica danese. E, tra l'altro, ci dicono una delle più importanti. Bene. Chiaramente non in heavy rotation, però vengono trasmesse, diciamo. Trasmesse. Infatti abbiamo un discreto seguito, però il nostro mercato principale attualmente sono appunto gli Stati Uniti. E non abbiamo un'idea della diffusione che ha la nostra musica, perché a parte il riscontro diretto, noi non sappiamo quanto sia quello indiretto. Anche se recentemente un sostenitore ci ha scritto: voi non avete idea di quanta gente da qui vi sta ascoltando. Ah, perfetto. Perché io sinceramente ho pensato, ci sta prendendo in giro per i fondelli, oppure effettivamente forse non abbiamo veramente idea di cosa significa. In effetti il mercato americano è enorme, per cui possiamo aspettarci di tutto. Non abbiamo ancora dei dati ufficiali di vendita del nostro album, però li avremo a breve, per cui li attendiamo con trepidazione, ovviamente. Certamente. Quindi sì, abbiamo parlato prima di evoluzione musicale. Voi avete fatto sentire un pezzo pseudo acustico, Escape Number 3, e mi è venuto sempre in mente quel discorso dell'evoluzione musicale. Avete detto che dal vivo i pezzi li fate quasi sempre uguali, perché chiaramente sì, dopo un anno e mezzo di nascita della band non è possibile, però l'idea di farli un po' diversi c'è, è presente nei vostri progetti oppure no? Vedremo. Cioè, in mente abbiamo il fatto che prima di poter stravolgere un nostro brano, questo brano deve avere comunque un certo seguito. Un certo seguito. Bisogna conoscere l'originale per apprezzare poi. Certo, la certo. La gente non deve avere l'idea che quella sia la versione originale. Devono capire che è una versione modificata. Ho capito. E questo chiaramente richiede tempo. Richiede, certo, diverso tempo. Chiaramente sì. Ok, 23:37, facciamo sentire un altro pezzo dell'album, cosa dite? Che traccia, vi ricordate la traccia da far sentire? Sì, adesso possiamo fare il pezzo, quello che abbiamo sentito in apertura. Sick Feeling As You. Che la traccia numero? 1. Chiaramente sì. La traccia numero 1, quel pezzo potente. Quello potente, adesso lo sentite in maniera un pochino diversa. Un pochettino diversa, decisamente. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Se abbiamo sempre Agostino, il nostro fotografo principale, che si è covacciato, si è nascosto, ma sta fotografando chiaramente, giusto, tutto dal vivo, 23:43. I ruoli della vostra band, abbiamo parlato internet, parliamo di internet. Sì, come stavamo dicendo sì. Prima fuori onda, diciamo siamo molto ben organizzati anche dal punto di vista gestionale, perché ognuno di noi poi fondamentalmente, in maniera anche naturale, senza stabilirlo, si è un po' incaricato di curare un aspetto della vita della band. Abbiamo Steve che si occupa principalmente di gestire i profili Facebook, io e Francesco ci occupiamo del MySpace, mentre Joe si occupa principalmente di gestire tutta la parte grafica del MySpace, trucca le foto dei concerti. Sembriamo anche dei gran fighi sulle foto. Sembriamo quasi dei musicisti, sì. E beh, anche quello è positivo, è importante. Sì, sì, sì, sì. È un gran lavoro, oltre tutta la parte poi di post-produzione dell'aspetto musicale. Io volevo sottolineare l'importanza e lanciarlo anche un po' come input per le band che ci ascoltano. Suggerimento. Come suggerimento, sì. Il fatto di non sottovalutare l'importanza del web, del MySpace, perché comunque ci siamo resi conto che per come è strutturato oggi il mercato per le band emergenti, non è facile emergere secondo i canali, quelli storici, ufficiali, canonici. Certo, difficile. E mentre internet, se viene gestito nella maniera corretta, con tanto lavoro dietro, può rappresentare veramente un'alternativa più che valida. Ne approfitto per ricordare il nostro MySpace, certo. Che è www.myspace.com/newdisorderband. E il lavoro che noi facciamo all'interno di questo nostro spazio è un lavoro quotidiano, è quasi un secondo lavoro, è un primo lavoro. Diciamo che lavoriamo per poter poi fare questo, ed è un lavoro fatto di contatti con persone, perché è vero, noi prima abbiamo dato dei numeri, abbiamo parlato di 20.000 persone iscritte al nostro MySpace, però tieni presente che noi con il 99,9%, giusto se capita qualche messaggio che ci sfugge perché magari sono tanti, quindi passano, non sono più in primo piano, però noi con tutte le persone che ci contattano, che ci chiedono delle informazioni, ci chiedono da dove veniamo, che storia abbiamo, chi siamo, semplicemente noi cerchiamo di rispondere, e a volte è una cosa simpatica, perché ci troviamo online nello stesso momento e i messaggi di posta diventano una sorta di chat, per cui noi chattiamo con le persone attraverso i messaggi che in tempo reale ricevono le contatto nostre risposte. Contatto diretto assolutamente da parte nostra con i fan. Ed è una cosa che noi curiamo molto, ci teniamo molto e pensiamo di portare avanti anche quando speriamo il MySpace diventerà ancora più popolato, il nostro MySpace è ancora più importante. E quindi ecco, questo è un consiglio che io do a tutte le band emergenti: usate il web, usate il MySpace, perché dà voce dove i canali ufficiali non danno voce. Eh sì, è difficile il discorso che si faceva con tante band che sono venuti qua a suonare, la difficoltà di trovare dei posti per cui suonare, perché la gente spesso e volentieri cosa finisce per chiedere, cioè i gestori dei locali, le cover, Vasco e Liga, adesso il disco nuovo di Liga avremo una sequela di cover band per cui... E poi scusami se ti interrompo, altra cosa sempre importante legata al web da non sottovalutare è che noi abbiamo avuto anche poi contatti con la casa discografica, l'etichetta che ci distribuisce sempre tramite web, sempre dopo aver avuto un riscontro positivo all'interno del MySpace. Se non avessimo avuto questo tipo di riscontro, probabilmente non ci avrebbero mai considerato, non neanche un'etichetta discografica. Quindi, certo. Quindi diciamo che è importante anche poi per accedere ai canali ufficiali, per cui ribadisco il discorso. E volevo anche dire che Francesca ha fatto riferimento alla distribuzione digitale, senza nominare però quali sono gli stores su cui siamo presenti. Tanto sono sempre i più importanti: iTunes, Amazon, Napster, 7digital. Ecco, abbiamo e trovate l'album Hollywood Burns dei New Disorder. Bisogna dirlo, perché insomma, certamente li troviamo su questi supporti sì, chiaramente. 23:47, beh, possiamo fare sentire un pezzo adesso, cosa dici? Sì, facciamo sentire quello di prima. Sì, facciamo sentire quello di prima. Prima l'avevamo sentito in versione originale. Adesso la versione rivisitata. Adesso la facciamo sentire una versione originale rivisitata, yes. Però chiaramente. Rock Wave. l'onda del rock. By voice inside the grave and trapped. Look back towards the tracks you left along the way. Cleansing same love you just put aside. Feel the cold embrace your spare time. When the moon's let down, the breakdown, same old sick memory. You turn around just to feel the thrill, running on the highways of my head. Oh, wish I was far from the way I mean. I wish I was the same I used to be. Follow the sun along the sky. Turn face and get ready when light's out. Cause hate and love make her spin in the same way. Oh, blame it on yourself when you're feeling fine. Feel the coldness of winter's blow on everywhere you go. A breakdown, same old sick memories. Oh, you turn around just to feel the thrill, running on the highways of my head. Oh, wish I was far from the way I mean. I wish I was the same I used to be. Oh, you turn around just to feel the thrill. Come and play same old games you did. You kill the pain, you delete the feelings. Get ready for the future you blew away. Oh, get ready for the future you blew away. Blu Radio. Le tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Un'altra faccia dei New Disorder, la faccia country. Stasera la faccia country, bello, bello. Come mai l'idea del country? Questo è un pezzo country, tra virgolette, sempre tra virgolette. Tu l'hai proprio descritto, l'hai colorato, l'hai trasformato in questo giochetto con l'acustica. Fammi sentire un momento il tastino che facevi prima. Ecco, proprio country secondo me. Come anche, mai l'idea? Anche delle sfumature reggae, diciamo. Sì, il ritmo, reggae country. Il ritmo, però sì, effettivamente reggae, l'arrangiamento, la sì, sonorità adesso, è tipicamente country. Tu hai detto, giustamente, adesso è reggae, sì, ma in questo momento è reggae. Sì. Prima l'ho sentito, l'ho sviluppato, almeno nella mia mente, come country. Come mai questa idea? Bella, secondo me, geniale. Allora, l'idea. L'idea è la persona più giusta per parlare, perché poi è un'idea sua. È un'idea tua, Gio. Allora, Giacomo, come ti Giordano. Chiami? Diciamo, Giordano, io sono la perversione del gruppo. In che senso perversione? Musicale, chiaramente. Musicale. The dark side of the band. Yeah. Sì, lato oscuro della band. Però il più perverso non sono io, sono loro che mi seguono. È un bel seguire, secondo me, questo, chiaramente. No, perché, allora, la decisione, come fare queste canzoni dal vivo? Ah, bello. Venire a Padova e farle, quello è proprio. Esatto, ci portiamo milioni di euro di amplificazione. No, non vale. Non serve. Allora, proviamo a riarrangiarle in un modo che ci piace a tutti quanti. E così è nata. Questa la sentivamo in questo modo. Sì. Escape la sentivamo più folcheggiante. Più folcheggiante. E nascono da sole. Non è. Loro mi dicono, Giordano, proviamola in questo modo. Sì, proviamola così e alla fine esce fuori il pezzo. E, che potrebbe essere anche un nuovo pezzo, perché alla fine è talmente bello e gustoso da sentire che non dici, oh mio Dio, ho riascoltato il pezzo di prima. Dici, scusate. Cavolicchi. Questi sono dei matti, perché hanno riarrangiato un pezzo e sembra un altro. Eh no, non sono dei matti, secondo me. Cioè, il pezzo nell'album era in una certa maniera, come abbiamo sentito. Però riarrangiato in questa maniera, non dico che non sia più dell'album, però è l'idea che può essere una strada aperta, chissà mai. Cioè, si possono sviluppare altri discorsi, sempre collegati a certe tematiche. È bello così, non so se è stato fatto volutamente per questa trasmissione di stasera. Stato fatto volutamente per questa trasmissione di stasera, ma però, soprattutto è stata fatta volutamente perché noi la sentivamo così. In quel preciso momento. Ci sono state quattro facce differenti, esatto. Questa sì, sera. Assolutamente sì. È una cosa positiva, è una cosa anche di coraggio, secondo me, che non è semplice. Va bene, voi dite, era difficile suonare in elettrico qua dentro. E quindi ricostruire quattro pezzi in modo diverso è un po' di lavoro mentale, ma è una cosa positiva. Però magari è stato anche un gioco per noi. È un gioco, ci sarà da sprone per fare un giorno un album di Unplugged. Ecco, bello anche quello, è interessante anche quello. Non è mica una cosa. Perché ricordo no? L'altro giorno, proprio prima di preparare la trasmissione per voi, ho sentito l'Unplugged dei Nirvana. Sì. Quindi un Unplugged straordinario. Niente male, eh? Niente male, era un grande Kurt Cobain all'epoca. Facevano, sì, costruivano i pezzi, li rifacevano, ma li facevano in modo unplugged, sembravano altri pezzi, la linea melodica c'era, l'input c'era sempre, però aveva un'altra dimensione. Stasera avete avuto un'altra dimensione, è una dimensione che può essere collegata alla vostra dimensione normale di disordine dal vivo, elettrici chiaramente, però sì, c'è niente di male, anzi è positivo secondo me. L'acusticità serve anche quello per scoprire degli orizzonti differenti. Infatti la prima volta che abbiamo provato questi pezzi acustici e adesso mi picchieranno. Perché? Non sapevamo farli. Ah, ho capito. Perché noi con la concezione, ormai siamo entrati nella concezione della spina attaccata e basta. Esatto, che il pezzo è nato così, era quello. Quando abbiamo preso le chitarre acustiche ha detto, ma come vengono questi pezzi acustici? Oddio. Temevamo un qualcosa che fosse tipo da falò da spiaggia. No. Invece poi in realtà effettivamente ci siamo resi conto che non era così. Beh, anche se era da falò da spiaggia in senso positivo, lo faceva anche, anche la canzone del sole di Battisti era un falò da spiaggia, ma era la canzone del sole di Battisti, quindi certo. Era un pezzo però semplice. Però era nata così. Però è nata così, era un pezzo semplice, facilissimo da suonare, però era la canzone del sole, anche se era un pezzo semplice, però aveva un suo substrato. Ma infatti che... Perché noi non sapevamo farle all'inizio? Perché le volevamo riprodurre come era il disco. Era un po' difficile. Allora abbiamo detto, cambiamo un attimo la concezione. Certo, è stata decisamente positiva. Per portare gli amplificatori e distorti si poteva fare, chiaramente si poteva fare. Però qualche volta si dice, io voglio provare anche qualcosa di diverso. Tenendo conto del discorso che avete fatto voi, essendo la band nata nel 2009, non si può provare qualcosa di diverso dal vivo. Però qua sì. Si può fare come avete fatto. Ma l'abbiamo fatto con gusto, insomma, ci siamo divertiti. Sì, è stato un ottimo spunto, davvero. Decisamente. E purtroppo abbiamo finito, sono le 23:57, abbiamo passato queste due ore assieme a voi. Ci avete fatto, come ho detto, le quattro facce, ci sarà un'ultima faccia, la quinta faccia della vostra discografia, è una cosa positiva. Cioè, la quinta me la fai in te nel senso positivo, però, musicalmente parlando. Il nostro regista è sempre spiritoso, sempre spiritoso. 23:57, grazie di questa cavalcata musicale. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a ricordiamo il titolo dell'album. Hollywood Burns. Ricordiamo che la vostra... praticamente una vostra autoproduzione. Sì, c'è una distribuzione digitale da un'etichetta, però i brani sono frutto della farina del nostro sacco, totalmente. Tutti farina del vostro sacco. Una band che è nata solamente nel 2009, quindi una band recente, ma con tanti altri substrati collegati. E il substrato collegato alle 23:58 quasi, che cos'è? La quinta faccia, oltre a quella del regista dal vivo, che ci fate sentire quella stasera. Che ti piace tanto a te. Ah, quella mi piace tanto a me. Sì, chiediamo con, abbiamo deciso di chiudere con quel pezzo proprio. La dedichiamo a te e a tutta la radio, a tutto lo staff della radio, ringraziandovi ancora per questa bella opportunità e per questa bella serata passata insieme. Grazie a voi, siete venuti da Roma fino a qua a sentire. È stato un piacere, veramente. Un piacere poi, anche per noi. Un ringraziamento speciale anche ad Agostino, che comunque ci ha... che diciamo, ci ha scoperto lui su nostro tramite MySpace e poi abbiamo approfondito la cosa su Facebook. Grazie Ago. e comunque è stata anche per lui anche una scommessa, insomma, portarci qua e speriamo sia andata bene. È stata una scommessa vincente. Grazie a tutti, devo solo ricordare che domani sera avremo un'altra band, gli Alex Snipper di Bergamo, e poi riprendiamo il discorso a mercoledì prossimo con Fabretti, che è un cantautore di Bologna, proporrà musica acustica con un altro chitarrista. Grazie a tutti, buonanotte, sentiamo l'ultima traccia dal vivo stavolta, assolutamente cantata, le cinque facce famose dei New Disorder di questa notte. Buonanotte. Escape, e grazie. Rock Wave, l'onda del rock. Call my name, I'm here, ready to follow you to hell. Show me how you dare. A soft blurred voice makes gone and wonder when all seems so peaceful, dragging in his deep spirit, every mark still alive inside. The heart still beating, throbbed blood in relaxed limbs, the face turns on a blue sea, crossed by stars that give off new feelings. Well, whisper to star you call for from the dust, like pieces of my forgotten life, I'll make it a new one. I'll whisper to star and show you way to come out, just when you thought you had enough. Finally free, alone you won't turn off the light, as you feel alive as it were supposed to be. I call my name, I'm here, ready to follow you to hell. Show me how you dare. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock.